Per quanto riguarda quello che è il riconoscimento di un valore sociale, diciamo, già esistente, una difficoltà che forse avete incontrato anche voi, mi ricordo il caso del mercato al Pratello che doveva partire, che più volte si è fermato anche per le difficoltà legate proprio al fatto di essere riconosciuti come una realtà, diciamo, diversa da quella che può essere semplicemente una realtà commerciale. Certo, quello c'è ed è una cosa anche attuale, nel senso che quel mercato lì ci è costato di dover uscire, scendere in strada anche quel giorno per far valere un percorso realmente partivo, nel senso che noi abbiamo lavorato 2 anni con la Social Street, la Social di quartieri, i commercianti per costruire quel percorso e quando sembrava fatto la burocrazia o comunque altri motivi un po' incomprensibili ce l'hanno fermato. Questo mercato comunque si è stato autorizzato temporaneamente solo per 6 mesi, al momento è stato messo a bando, noi abbiamo partecipato al bando, da più di un mese le graduatorie e non sono ancora uscite, quindi siamo anche un po' in ansia perché dopo la fatica per averlo costruito, un avviamento che è stato anche fortunato, il mercato sta funzionando molto bene con molto apprezzamento delle aziende del quartiere, all'oggi a più distanza di un mese dalla nostra, diciamo, partecipazione al bando, non sappiamo perché comunque non escono le graduatorie, noi davamo per scontato un'assegnazione, certo che un bando è sempre un po' una lotteria o comunque una competizione che noi fra l'altro contestiamo nella logica delle assegnazioni di spazi pubblici, di mettere in competizione realtà che fanno comunque cose buone o utili per la città e doversi litigare gli spazi che ci sono, a maggior ragione per gli spazi di mercato, cioè Bologna è piena di piazze, non vediamo perché un'altra realtà o altre realtà che fanno noi debba venire a contenderla, a chiedere di fare un mercato già avviato da un altro gruppo. Noi non lo faremo mai, chiedere una piazza dove ci sono altri che fanno mercato, quindi qualcuno l'ha fatto, legittimo dal punto di vista legale, il comune però non ci ha ancora dato risposte su chi ha vinto questa assegnazione, speriamo che arrivino presto, insomma, anche perché i produttori ci campano di quel mercato e hanno già piantato, investito, fatto cose pensando di continuare a farlo, potrebbe essere una amara sorpresa trovarsi senza reddito nei prossimi mesi perché il mercato viene assegnato ad altri, insomma.